get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella che state per accingervi ad ascoltare sarà la nostra 278esima trasmissione. Noi siamo il coordinamento lesbiche romane e vi parliamo attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.9 MHz. Stasera a farvi compagnia c'è Caterina che vi sta parlando e Stefania. Buonasera. Insieme vi parleremo di due film usciti nelle sale cinematografiche in epoche diverse, ma che trasmettono lo stesso identico messaggio, messaggio rivolto essenzialmente alle bambine. Sì, perché stiamo parlando di due film di animazione e che in quanto tali e come si è soliti pensare dovrebbero essere rivolti principalmente all'infanzia. Purtroppo però, secondo il nostro parere, pur essendo rivolti a giovani menti, non riescono affatto ad essere educativi, anzi arrivano quasi ad essere deleteri e portatori di una visione retriva di ciò che sono i sogni e le aspettative dei bambini in genere, ma soprattutto delle bambine. È per questo che stasera ci farebbe piacere anche sapere la vostra opinione al riguardo e quindi vi ricordiamo che avete la possibilità di scriverci sms durante tutta la durata della trasmissione al numero 339-853-6270. A questo punto cominciamo facendovi ascoltare la famosissima canzone tratta dal film di Mary Poppins e vi diciamo subito che l'abbiamo scelta perché il titolo è composto da una sola parola che ha un enorme pregio, non significa assolutamente nulla. È un po' in tema con tutto quello che si dirà questa sera, più o meno. Si tratta di Supercalifragilisticexpialidoso che speriamo vi faccia entrare in sintonia con l'atmosfera necessaria alla comprensione degli argomenti di oggi. Bene, non ci resta che augurarvi buon ascolto a questo punto e adesso mandiamo Supercalifragilisticexpialidoso. Supercalifragilisticexpialidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso. Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò: rimane così male che il meglio ci ritrovò. Oh, supercalifragilisticexpialidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso. Gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà. Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè. Supercalifragilisticexpialidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso. Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non senza credi? Senza dubbio. Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare. Udite. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare. Per esempio, sì. L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa. Supercalifragilisticexpialidoso, supercalifragilisticexpialidoso, supercalifragilisticexpialidoso, supercalifragilisticexpialidoso. Allora, il film di cui vi parliamo stasera, uno dei film, è Ribelle dei Brave, targato Disney Pixar, per la regia di Brenda Chapman e Mark Andrews. Scusate l'inglese, che sicuramente... Sono abituati con me, quindi vai tranquilla. Ok. Allora, questo film è uscito nelle sale a settembre, e ha vinto il Golden Globe e qualche sera fa addirittura l'Oscar come miglior film di animazione, quindi il riconoscimento principale per la categoria proprio. Siamo stati incuriositi da questo cartone animato, presentato al grande pubblico come importante, intanto perché la protagonista è una ragazza, ma soprattutto perché è stato pubblicizzato come il primo cartone animato femminista. Incuriosite, abbiamo deciso di vederlo e la trama è presto detta. Nella magnifica Scozia, la principessa Merida è insofferente a tutti gli obblighi che le derivano dal ruolo, come apprendere il cucito, seguire un codice di abbigliamento e avere una condotta consona. La principessa, invece, preferisce tutt'altro genere di attività, come cavalcare e tirare con l'arco. La mamma, depositaria della cultura dominante, tenta senza grande successo di indirizzarla verso quei comportamenti ritenuti più adatti al suo futuro ruolo da regina. Il padre, nella sua irresponsabilità di eterno fanciullo, vive senza regole e non si occupa dell'educazione della figlia, ritenendo questo compito un dovere di completo appannaggio femminile, demandandolo dunque alla moglie. Quando la madre decide che per Merida è arrivato il momento di sposarsi, il padre acconsente, per accontentare la moglie e nonostante sia consapevole che la figlia abbia più volte affermato di amare la libertà e di non volersi mai sposare. Assistiamo quindi a una frattura conflittuale all'interno di questa famiglia regale. Dopo alterne vicende, compresa l'apparizione di una simpaticissima strega, si compie la riconciliazione con i genitori, sotto l'egida della trama più classica. Non è vero che la giovane non vuole sposarsi, vuole semplicemente scegliere il marito a cui sottostare. Infatti vediamo Merida dichiarare pubblicamente che solo i giovani, sia maschi che femmine, dovrebbero scegliere chi sposare. In questa ottica, ovviamente, non sono contemplate ancora una volta le relazioni lesbiche e gay o percorsi altri di vita. L'unica concessione rimane il non essere ancora pronta. Sposerà forse un fabbro per farsi sciogliere le catene, come recita una canzone indiana? L'eroina è veramente un personaggio anticonvenzionale. Ha i capelli rossi e scarmigliati, non accetta di vestirsi da donnina, vuole decidere per sé. La stonatura si percepisce durante l'evolversi del film e sta nella discrepanza tra la Merida d'inizio e quella di fine film. La prima è granitica nella sua certezza di non volersi sposare. La seconda, invece, cambia visione e diventa possibilista in relazione al suo futuro. Merida sembra essere convinta di poter scegliere, ma strizzando l'occhio alla tradizione rappresentata dai suoi genitori, non fa altro che rimanere ancorata allo schema che prevede per lei un'unica scelta possibile. Ora, il problema non è tanto il film in sé, che risulta gradevole, ma la presentazione che ne è stata fatta come cartone animato femminista. Tranne qualche recensione a nostro avviso più accurata, ne citiamo una per tutte come quella uscita su mymovies.it, che titola proprio «Una favola tradizionale», a sottolineare il classico intreccio ribellione, lite con i familiari e riconciliazione, le altre recensioni sono palesemente fuori fuoco, perché definiscono il lungometraggio femminista. Qualche titolo per farvi un'idea. Per film.it è «Profondamente femminista». Per Cinemarci Blog, «Una favola femminista». Panorama vede forse un disegno politico titolando «Svolta femminista tutt'altro che casuale», crediamo riferendosi alla Disney. Purtroppo anche per Repubblica la protagonista è una principessa femminista, mentre molti altri titoli, altri siti, titolano «Primo intreccio dichiaratamente femminista». E da qui il motivo di questo articolo. Ci chiediamo, ma dov'è il femminismo in questa storia? Secondo questi esimi giornalisti, tra cui purtroppo anche alcune donne, pare risultare come femminista il semplice volersi scegliere il marito? E noi rincariamo la dose domandando: è femminista dire ai propri genitori che non si è ancora pronte al matrimonio, ma che prima o poi ci si sposerà? O per essere femministe basta che la protagonista sia una donna? Ricordiamo però che ci sono già state altre protagoniste di cartoni animati, tipo Rapunzel, Mulan o, se vogliamo, la stessa Cenerentola, tutte femministe? O forse è femminista andare a cavallo e tirare con l'arco? Se non fosse che già più di 30 anni fa Lady Oscar tirava con l'arco, non con l'arco ma di spada. Si potrebbe forse intravedere qualcosa di innovativo in questo film. È chiaro purtroppo che il cartone animato è stato venduto dalla Disney Pixar proprio con l'appellativo di femminista, ed è proprio così che i giornalisti l'hanno pedissequamente riportato. E aggiungerei anche, purtroppo così ha vinto l'Oscar. E certo. Facendo queste riflessioni, l'occhio si è fermato sui titoli di coda. Soggetto del film: Brenda Chapman. Sceneggiatura: Brenda Chapman. Regia: Brenda Chapman e Mark Andrews. Quindi un lavoro ideato e realizzato quasi interamente da una sola donna. Questo ci ha ulteriormente incuriosite. Abbiamo cercato notizie su questa regista per scoprire che a metà film è stata allontanata dalla produzione. Purtroppo la nostra ricerca si è dovuta fermare qui, perché dei vari articoli che abbiamo letto non ci è stato possibile trovare la motivazione di questo allontanamento, a nostro avviso grave visto che l'intero film era stato da lei ideato. La stessa Brenda, in un'intervista, afferma che per motivi legati al contratto non può rivelare le cause del suo allontanamento e dichiara che nei prossimi accordi farà attenzione ad avere pieni poteri sul set. Vi lasciamo con un dubbio che ci è sorto analizzando il fatto che Merida cambia repentinamente atteggiamento ad un certo punto del film. E se dipendesse dal fatto che Brenda Chapman è stata allontanata proprio perché aveva pensato ad un film più coraggioso, magari realmente femminista? Ed ora ascoltiamo il brano musicale Tra vento e aria di Noemi, tratto proprio dal film Ribelle. L'amore è una stella che trova la strada giusta per te. Risplende caldo su di noi per mostrarti le cose che vuoi. C'è tanto che ancora tu non sai, ma io credo che sia tardi ormai. Guardo i muri che crollano giù, voglio volare ancora più su. Potrò trovare la mia libertà tra il vento e l'aria. Noi siamo giunti fino a qua, quel che proviamo poi ci mancherà. ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Cercateci anche su Facebook CLR Donna. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle 21. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via Francesco di Sales 1B, 00 165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email contatti@clrbp.it e il nostro website www.clrbp.it. Il numero per gli SMS è 339-853-6270. Anche per oggi ne aspettiamo molti e, come diciamo sempre, se le cose che avete da dire sono molte, potete inviarci una mail all'indirizzo di posta elettronica che vi ripeto subito nel caso non aveste fatto in tempo a trascriverlo. contatti@clrbp.it. Ripetiamo anche il telefono della radio 06 49 17 50 ed il nostro cellulare sul quale inviare messaggi 339 853 6270. Ora la parola a Caterina. Grazie. Mandiamo un po' di Nina Simone, che mi sembra un ottimo stacchetto per ritirare su il livello della musica, diciamo, via. Vabbè, la mia solita fortuna con la tecnologia ha fatto in modo che la pausa tra una canzone e l'altra del CD finisse proprio esattamente quando io avevo deciso che questa doveva andare in onda. Va bene, comunque mi aggancio subito a quanto ha appena detto Stefania, solo per ricordare che un'operazione del genere non è la prima volta che si verifica e ahimè e ahi noi non sarà purtroppo l'ultima. Mi torna in mente infatti anche un altro film sul quale noi del coordinamento Lesbiche Romane abbiamo sentito all'epoca in cui è uscito il bisogno di fare una piccola recensione. Si trattava del film di Walt Disney Come d'Incanto, in distribuzione nelle sale cinematografiche durante le festività natalizie del 2007, mi sembra. C'è da riconoscere senz'altro che l'operazione di trasferimento di imposizioni culturali attraverso gli input mediatici si è un tantino modificata nel corso degli anni, ma come amano sottolineare le amanti della matematica, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Perché dico questo? Perché il messaggio che entrambi le pellicole lanciano a chiunque guardi il film, grandi o piccole che siano le spettatrici, si differenzia davvero pochissimo, ma andiamo per ordine. Come ho spiegato nell'incipit di questo mio intervento, il film Come d'Incanto uscì sotto Natale. Natale è un periodo dell'anno nel quale noi zie lesbiche, che durante tutto l'anno gestiamo rapporti con la prole di fratelli e sorelle, veicolando tipologie relazionali non proprio classiche, che so, basti pensare a come ci presentiamo noi all'interno delle loro classiche famiglie, ad esempio. Noi zie lesbiche, dicevo, ci lasciamo un po' coinvolgere dal delirio consumistico per antonomasia, nel quale, loro malgrado, i bambini e le bambine vengono risucchiati. Ora, salvaguardando la regola in base alla quale può essere giusto dare un colpo al cerchio e uno alla botte, se per tutto l'anno noi zie lesbiche ci mettiamo in gioco per far scoprire alle nipoti un modo altro di stare al mondo, a volte ci piace pure assecondare qualche desiderio in più, tipo andare insieme al cinema a vedere il polpettone animato creato ad hoc per Natale. Ed è per questo che con Pina, la mia compagna, siamo andate al cinema a vedere Come d'incanto. D'altra parte, avevano già dovuto accettare il fatto che per noi i regali li avrebbe portati la Befana e non Babbo Natale, perciò un piccolo compromesso ci stava proprio bene. Veniamo dunque a quel film, realizzato molto bene anche con l'utilizzo di risoluzioni tecniche decisamente innovative nel 2007. Si alternavano scene con personaggi umani e personaggi di cartoon che interagivano benissimo. Già questo avrebbe potuto far cadere l'ago della bilancia su un giudizio tendente al positivo se, ed ecco l'inganno, non si fosse palesata la solita zuppa, raccontata peraltro sempre allo stesso modo. In sostanza si raccontava la classica storia tipo Cenerentola, dove una povera e graziosa fanciulla aspettava che un ricchissimo principe la sposasse. Chiaramente il tutto era stato egregiamente impastato con gag simpatiche, con animaletti divertenti che accompagnavano i personaggi e, come di consueto, non poteva mancare la strega cattiva ed il colpo di scena. Come vedete, sembra nella struttura quasi una fotocopia del film raccontato prima da Stefania, e sempre come nel film di cui ci ha parlato Stefania, anche in questa pellicola è stato dato un messaggio unico che portava inevitabilmente e per deduzione a far credere che tutte, ma proprio tutte le donne, non aspettino altro che quello che anche la protagonista sognava, e cioè, in quanto femmina, il ruolo a lei predestinato non poteva essere altro che l'angelo del focolare. Ma la cosa, ahi noi, non si è limitata a questo, purtroppo. La futura reginetta della casa, infatti, entra in competizione con l'altra candidata a reginetta, quindi, per riuscire a spuntarla, cerca di accaparrarsi le simpatie del moderno principe azzurro, cercando di diventare per lui assolutamente insostituibile. E volete sapere quali strategie segrete, quali armi di seduzione e quali tattiche comportamentali adotta per realizzare ciò? Bene, riordina, rassetta e lucida tutto l'appartamento, l'appartamento di lui che, in quanto uomo, risulta essere chiaramente sempre in disordine, quasi fosse legittimato a vivere nell'immondizia, ma si sa, i maschi sono simpatici mascalzoni e poi l'uomo ha da puzzà. No, dico, capito l'intento? Delineare in modo forte e chiaro in tutte le giovani menti qual è e quale deve continuare ad essere il ruolo della donna, in modo che si abituino fin dalla più tenera età a non aspettarsi di più, a non vedere niente altro, a non desiderare niente altro, né una vita da single, né una vita indipendente, né una relazione paritaria, né, meno che mai, una relazione lesbica. Noi lesbiche che riteniamo fondamentale il desiderio, non ci stupiamo se, visti i presupposti, per qualcuna il maggior desiderio continua ad essere quello rappresentato in film come quelli descritti. Rimaniamo però molto sorprese che tante altre mamme, zie, nonne o giornaliste che dir si voglia, non si arrabbino come ci siamo arrabbiate noi, non smascherino il gioco sotterraneo, che, e non si rendano conto che il perpetuare la tradizione patriarcale e misogina prima o poi colpirà loro stesse. Che dire di più se non missione compiuta? Una altro film, sempre un cartone animato di qualche anno fa, Gli Incredibili, sicuramente un film riuscitissimo e molto divertente. A inizio film, Elastic Woman viene intervistata da un giornalista che, tra le altre cose, le domanda: quando è che si sistema? E lei: oh, sistemarmi, risponde, sono all'apice della carriera, non ci penso proprio. Nella scena successiva si sposa e fa la casalinga per tutta la durata del film. Appunto, è completamente realizzata, no? Vabbè, io dico che è meglio ascoltare un altro brano musicale, ma forse è meglio. A questo punto abbiamo scelto la sigla di uno dei pochi telefilm che, pur rientrando nella fascia pomeridiana, aveva come protagonista una bambina. Bambina che non era affatto una perdente, una derelitta, un'orfana maltrattata, una bisognosa di qualcuno che si occupasse di lei. Insomma, era una bambina che se la cavava davvero bene da sola. E stiamo parlando di Pippi Calzelunghe. Con quello che abbiamo finora trattato, abbiamo una domanda per Lasciarelli: che fine ha fatto Batwoman? Allora, nel 2009 siamo state colpite da questa notizia che, con titolo inerito sui giornali, citava: per 12 numeri la protagonista sarà Katie Kane, donna omosessuale dell'alta società. Fumetti, una Batwoman lesbica prende il posto di Batman scomparso. Bruce Wayne, l'alter ego dell'uomo pipistrello, forse è morto. E la DC Comics lancia un'eroina alternativa. Abbiamo allora cercato altre notizie e tutto era sempre più incoraggiante. Sentite, il successo del personaggio Batman dura da oltre 60 anni, tanto che l'ultimo film a lui dedicato, Il Cavaliere Oscuro, ha registrato record di vendite. Parallelamente al cinema procede la vita del fumetto e così, due mesi dopo l'improvvisa morte di Bruce Wayne, il miliardario che di notte veste i panni di Batman per combattere il crimine a Gotham City, i creatori del celebre fumetto della Detective Comics hanno finalmente rivelato chi prenderà il posto dell'uomo pipistrello nei prossimi numeri: una donna molto elegante, dai lunghi capelli rossi e lesbica. Ma facciamo un po' di storia. Allora, Batwoman è un personaggio dei fumetti DC Comics creato da Bob Kane e Sheldon Moldoff. Comparve originariamente nel numero 233 della serie Detective Comics nel 1956. Batwoman nacque, diciamo così, come controparte femminile degli eroi Batman e Robin. Dopo un periodo in cui il personaggio non veniva impiegato nella continuity, nel 2006 la DC Comics rilanciò il personaggio all'interno dell'undicesimo albo della saga 52, grazie al designer Alex Ross. L'identità di questa nuova Batwoman è Katie Kane, miliardaria lesbica che frequenta gli stessi ambienti di Bruce Wayne, alias Batman, ed è la compagna di René Montoya. Montoya è una poliziotta del Dipartimento di Polizia di Gotham City. Batwoman, come eroina mascherata, agisce indipendentemente da Batman, per quanto sia una sua grandissima ammiratrice. Chiaramente l'omosessualità del personaggio destò non poco scalpore nei media. Il lavoro di Grant Morrison, un fumettista scozzese famoso per la sua irriverenza narrativa, portò una revisione della continuity batmaniana. Morrison, infatti, portò alla ribalta Batwoman. Da un articolo a firma Giulia Volpe del 20 marzo 2009 leggiamo: le nuove generazioni non erano ancora nate quando Katie Kane, in arte Batwoman, appariva per la prima volta sulle pagine firmate DC Comics, ospite del suo famosissimo alter ego maschile, Batman. Era il 1956 e, da allora, l'eroina appare più volte come controparte femminile di Bruce Wayne, ma restando tutto sommato sempre ai margini, fino a che Grant Morrison, sceneggiatore scozzese dell'ultima serie, non decide di scagliare nel vuoto un Bruce Wayne privo di maschera e costume, decretandone la morte, dopo 60 anni di gloriosa carriera. Ma niente paura, a vegliare al posto suo su Gotham City sarà proprio lei, Batwoman, che oggi festeggia la definitiva promozione in un restyling rouge et noir, fiammante restyling, chioma lunga, bruna e riccia, seconda pelle nera che scolpisce i muscoli statuari, ma con accessori, mantello e stemma e rosso fuoco. Interessante davvero, ma le evoluzioni successive non hanno rispettato in pieno le aspettative. In realtà nel corso degli anni, partendo dalla sua creazione nel 1956, nell'universo della DC Comics, sono esistite tante Batwoman: Katie Kane, Kate Kane, Beth Kane, Cassandra Kane... Mamma mia, Helena Wayne, Brenna Wayne, Selina Kyle e addirittura un'aliena del quarto mondo. Tutte quante, in un modo o nell'altro, hanno nel tempo vestito i panni della Batgirl di turno. Ora, nel 2011, Grant Morrison inserisce nella continuity attuale Katie Webb, che è un'artista da circo ingaggiata da un misterioso agente 33 per conto dell'organizzazione segreta Spiral. La sua missione sarà avvicinare Batman per scoprirne l'identità segreta. Katie, quindi, si creò l'identità di Batwoman riuscendo nel suo intento e, come nelle più belle fiabe, fece innamorare di sé Batman, scoprendo che altri non era che il nipote del defunto marito. Innamoratasi a sua volta, lo lasciò per non essere costretta a rivelare la sua identità. Ora, che fine abbia fatto nel frattempo la Batwoman lesbica, ex compagna della poliziotta di Gotham City, René Montoya, non è dato saperlo. Forse è stato per levarsi dall'impiccio, o forse perché Katie era diventata scomoda, troppo trasgressiva, o forse troppo importante. Fatto sta, poco dopo questa avventura travolgente con Batman, morì uccisa da Tigre di Bronzo della Lega degli Assassini. Le ragioni di questa scelta sono tuttora ancora poco chiare. ma la saga continua perché qualche tempo dopo sono state riportate in vita altre Batgirl, le cui storie personali sono il risultato di intrecci e arzigogoli davvero difficili da seguire. Alcune sono le ex assistenti della Batwoman primaria, altre risultano essere nipoti, vedove o figlie del colonnello papà di Batman. Sono parenti prossime o meno prossime dell'eroe pipistrello in calzamaglia nera. Spunta pure una sorella gemella con la quale Batwoman fu rapita anche insieme alla madre e che più ne ha più ne metta. L'omosessualità di Kate riaffiora soltanto quando Nightwing, altro supereroe, si mostra infatuato di lei. Ma sugli sviluppi della cosa cade un sipario oscurante. Sappiamo soltanto che in un prossimo futuro Bate Kane, alias Batgirl, alias Flamebeard, cugina e alleata dell'attuale Batwoman, è mostrata come una nuova Batwoman nonché amore di Tim Drake, alias il nuovo Batman, nella saga Titans Tomorrow. Insomma, seguendo tutte le evoluzioni pindariche, si arriva fino al 2005, dove Brenna Wayne, l'ultima discendente di Bruce Wayne, è addirittura vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Assume su di sé l'antico retaggio del pipistrello per difendere la sua famiglia dall'immortale Vandal Savage, che da ben 13 generazioni uccide, uno dopo l'altro, tutti i rampolli della famiglia Wayne, dopo aver fatto indossare loro un costume di Batman. Mentre Selina Kyle, alias Catwoman, in una terra parallela smette i panni della donna gatto per diventare Batwoman, compagna di Batman. Beh, come poteva mancare il lieto fine? Finalmente li hanno fatti mettere insieme Batwoman Batman, grande. Inevitabile direi. Ma io direi che per concludere questa lunga carrellata sui film, telefilm e cartoni per l'infanzia, vi proponiamo un'altra personaggia, proprio niente male, e quindi tutta per voi, signore e signore, Lady Oscar. Oscar. E ci divertiamo pure noi. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere, padre che sei tu. Notte buia alla corte di Francia, a palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Con scatto felino ed abile mossa, colpirà tutte e tre. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, nella mischia vincere tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le gran dame forte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello che eleganza c'è. Oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh Lady, Lady, Lady, Lady, E come nelle migliori trasmissioni mediasettiane, diciamo così, non poteva mancare un po' di gossip, giusto? Giusto. Vai Stefania. Allora, leggiamo da Queerblog. Batman è gay, anzi molto molto gay. Per noi che abbiamo il gay radar allenatissimo a riconoscere gli altri gay a chilometri di distanza, la notizia non è certo una novità, ma per molti lo sarà. A fare questo outing è Grant Morrison, che da qualche tempo firma le storie del muscoloso pipistrello. Batman è molto molto gay, è molto plutoniano, nel senso che è ricco e nel senso che è sessualmente deviante. Ovviamente, essendo un personaggio immaginario, è stato inventato per essere eterosessuale, ma il suo concept di base è assolutamente gay. Credo che questo sia il motivo per cui la gente lo adora. Tutte queste donne vestite con abbigliamento fetish e che gli saltano attorno per averlo. E lui non se ne cura. È più interessato ad andare in giro con il tipo anziano, il maggiordomo Alfred, e il ragazzino Robin. Hai capito niente? Batman! Bene, sulle note della bellissima voce, anzi sulla di Nina Simone, noi del coordinamento Lesbiche Romane speriamo che questa trasmissione sui cartoni animati vi abbia sollevato un po' il morale in una giornata del genere. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento fra 15 giorni, se non sbaglio, giusto? 15 giorni? Sì, fra 15 giorni, va bene. Ciao e buon proseguimento. Buona serata, ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.